Blu Radio Veneto. Sono le 22 e 6 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, eccoci qua. Non potevamo interrompere un pezzo di Jeff Buckley. Jeff Buckley era essenziale. Non si può. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rock Wave, buonasera ai Pal Non Punches. Stasera suoniamo, vengono da Verona, hanno fatto un buon viaggio nonostante l'acqua. State bene? Stiamo bene, grazie. Bene, sì, bene, sì. Grazie. Un bel viaggetto sotto l'acqua, però. Purtroppo il tempo è così, però sì. Viaggiare sotto l'acqua... Purifica e poi e il suonare non sotto l'acqua purifica ancora di più. Buonasera a tutti. Stasera l'ennesima puntata di Rock Wave alla vigilia di una festa, ma noi andiamo avanti, the show must go. Lo spettacolo deve sempre continuare. Festeggiamo con il rock e con il rock e con il blues, perché il vostro disco, questo disco di esordio, questi 10 pezzi odora molto di blues. Siete d'accordo oppure no, ragazzi? Beh, diciamo che il blues, almeno per quello che mi riguarda, è stata una delle importanti fonti di ispirazione. Insomma, penso che di averlo riversato nella musica. Decisamente nella musica. Prima di andare avanti, di allargare il discorso, ci presentiamo. Dal bassista al chitarrista. Allora, ciao, sono Ronny, suono il basso, o così si presuppone che sia. Un bel basso, un bel Fender, quello. Sì, stasera ho un Fender fretless, visto che siamo in acustico, allora più, un po' più morbido. Per rispetto a quello che usi di solito. Sì. Beh, Ronny con il basso, allora, vai. Key? Io sono Key alla voce. Stefano alla batteria. Alberto alla chitarra. Quindi... i quattro personaggi perfetti musicalmente, il quartetto è perfetto: basso, batteria, il vocalist e la chitarra. Esatto. Dal vivo suoniamo con due chitarre di solito. Con due chitarre, perché siamo in fase acustica. E quindi abbiamo accorciato un po', fa tutte le parti lui. Quindi tu canti e basta stasera. Canto e basta, suono il cembalo io. Ah, suono il cembalo, è una cosa importante. Il virtuoso del cembalo. Sono il virtuoso del cembalo. È una bella cosa il cembalo, non mica tante volte che abbiamo sentito il cembalo nelle nostre trasmissioni Rock Wave. Stasera sentiamo anche il cembalo. E anche l'armonica. E anche l'armonica. Vedi che il blues viene sempre fuori, sì. C'è poco da fare. Grazie a Michele Ottosoni in regia, che guiderà le macchine che porteranno fino alla fine della trasmissione. E stasera faremo una carrellata sulla vostra musica. E dove nasce l'idea dei Pal Non Punches? Dove nasce? Come si sviluppa? Voi siete di Verona praticamente. Noi siamo di Verona. Le canzoni nascono da tempo addietro, perché io ho vissuto tanti anni all'estero, mi sono portato queste canzoni dietro, le ho scritte mentre ero in giro. E poi sono tornato in Italia, la difficoltà è trovare musicisti in Italia, finché ho trovato Ronny. È stato Ronny, diciamo, che ha propiziato il tutto, perché se non ci fosse stato lui probabilmente non saremmo qua. Cosa vuol dire che ho avuto difficoltà, tu che vieni dall'Irlanda, sei stato in Irlanda un po' di anni, hai avuto difficoltà a trovare musicisti in Italia, cosa significa? È difficile trovare persone per fare un progetto serio con la giusta mentalità. Io probabilmente avrò una mentalità tutta particolare, di sicuro, però mi sono trovato con difficoltà a trovare gente con la stessa mentalità per fare qualcosa, senza rimanere sala prove, senza fare le cose tanto così per fare, insomma. Perché in Irlanda che mentalità c'è musicalmente parlando? È una mentalità diversa, nel senso, dopo 3 settimane si va già in giro a suonare, non si stanno anni sala prove. Che è una cosa molto differente dall'Italia, dove si stanno giorni e giorni in sala prove. C'è molta più musica, se pensare che cittadine più piccole di Padova e di Verona hanno, non so, 2000 locali, e in questi 2000 locali magari l'80% fanno musica quasi tutte le sere. C'è più coraggio, allora, assolutamente. C'è più coraggio, e tutti sanno suonare, tutti sono molto bravi a suonare, perciò è un posto molto particolare dove stare, ecco. Diciamo che molte influenze di queste canzoni sono nate appunto là. Bene, una cosa interessante, questo non lo sapevo, i 2000 locali nelle piccole cittadine irlandesi, ne sa qualcosa Bono e Company probabilmente, ma adesso Bono non fa più parte dell'Irlanda, fa parte del mondo, esattamente per questo. Ok, cominciamo allora ad esplorare il vostro disco, come dal suolo, noi apriamo la finestra musicale. Avete scelto la traccia numero... 4. L'avete scelta perché è il singolo potenziale, il singolo, cioè il singolo che dà dall'input, dall'A. alla vostra band. Sì, diciamo che il singolo non l'abbiamo scelto noi, o meglio, noi avevamo la nostra idea di quale poteva essere, abbiamo mandato il disco a gente, insomma, a nostri amici in giro, tra cui lo stesso Stefan Bowman, che è il produttore anche dei No Kiss, produttore degli che Helicopter. Che sono tutti qua tempo fa, i No Kiss a suonare. Helicopter dei certo. E altre persone, tutti hanno scelto questa traccia qua, perciò alla fine era quella che volevamo noi, perciò meglio di così, non si poteva scegliere. Insomma. La sentiamo e poi ne parliamo un pochettino. Perfetto. Ok. The sun is waking up from a village. Well, these clouds are catching up my only breath. Smile about myself, gonna cry. I'll be a crow that rise with the hand of in my face. Become feathers on my rays. Rain covers my face. There are no saints that can make me feel good. Pain follows me down as I start a countdown. No one can stop me now. This is only of innocence. Smile about hidden love. Now I wake and I wait and I waste all I made in the face. All the space, all this downs around. Rain washing away. I've no complaint. I'm no so innocent. Pain colors me down. It's a running black. SMS 346 2320 033 Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, parliamo di questo singolo potenziale, questa traccia un po' funky. Mentre il pezzo andava, io e i ragazzi abbiamo fatto qualche considerazione. La possiamo fare dal vivo la considerazione che abbiamo fatto. Cioè le diverse facce, diversi elementi, diversi input. Ha parlato il batterista, vai. Ma diciamo che deriva un po' da... Stefano si chiama batterista. Esatto. Diciamo che arriva un po' da... essendo che lo facciamo di lavoro, comunque ti capitano tante volte, tante serate, situazioni diverse. Quindi una sera vai a suonare jazz, una sera suoni funk, una sera suoni rock. Quindi comunque è un po' l'unione di tutte queste cose. Quindi tira fuori un po' quello che siamo noi. Ecco perché forse tendiamo al blues, tendiamo un po' al funk... È sì, bella questa cosa qua, insomma. Esatto, esatto. Lei continua, sì, ha detto una cosa giusta, contaminare è molto importante. Però io l'ho sentito, non sapevo di questa a vostra attinenza, però sento un po' funky, ma è funky positivo, cioè un po' di movimento. Per niente sì. È il singolo, doveva essere singolo, ma i singoli esistono ancora adesso, sì. Ma beh, forse, beh, una cosa simile al singolo, c'è qualcosa da muovere, da scaldare l'ambiente o no? Cosa dite? Sì, beh... Era il pezzo forse che ci rappresentava di più, anche perché quello un po' più, non lo so, ci piaceva, ci dava la sensazione giusta. E dal vivo come lo fate? Violentemente? Oppure sì, è tutto violento. Tutto violento. Molto violento. Molto violento, è violentissimo, è violenza pura. Okay. Sì. Qua chiaramente diciamo una dimensione acustica è un po' diverso, però la dimensione acustica è qualche volta è molto più difficile che non la dimensione elettrica. Cioè in acustico è problematica in certe cose, devi saper suonare in acustico, cosa dite? Ah beh, indubbiamente sì, in acustico anzi può essere uno stimolo molto molto forte come lo è stato per noi a ristravolgere le canzoni, riarrangiarle, riguardarle, riscoprirle esatto, assolutamente riscoprirle. Sì. E sì. Dargli una veste assolutamente diversa da quella che è poi quella che si ritrova nel nostro disco, insomma. Dobbiamo sottolineare una cosa, i nostri ascoltatori lo devono sapere, i ragazzi qui presenti hanno lavorato molto per fare questo live acustico, sì. Circa 2 mesi, non è mica una cosa da ridere. Cioè non avete ripreso i vostri pezzi, li avete ammodernati, li avete ricostruiti per questa sera. Sì, e non è una cosa così. Sì. È una costruzione, un percorso importante secondo me. Sì, è stata una riscoperta delle canzoni proprio, nel senso le abbiamo riviste, riscoperte, ci sono ripiaciute di nuovo, è stata una bellissima palestra. Ecco, esatto, è stata una bellissima palestra. E i pezzi che avete scritto sono stati scritti di getto, cioè quando siete stati in studio era tutto pronto o ci sono state più take praticamente? Tutto pronto, abbiamo fatto la produzione. I pezzi originalmente sono pezzi nati negli anni, sì. Sono molto sparsi in giro. Però quando siamo andati in studio i pezzi erano quasi tutti preparati, tranne forse Yesterday and Tomorrow, che è un pezzo bellissimo da parlare. Il mio pezzo un po' più è stato suonato live, cantato live, perciò un po' più così, però... Per il resto tutto arrangiato. Quindi quando stavate facendo l'esecuzione avete allargato il raggio d'azione o vi siete mantenuti come nella linea che avevate predisposto? Questa forse è una domanda difficile. Diciamo che probabilmente strada facendo le idee positive che venivano fuori, anche se erano diverse da quello che avevamo programmato prima, sono state sicuramente inserite chiaramente, perché insomma ci deve essere sempre comunque un po' di libertà, po' di... C'era un pizzico di libertà, insomma. Assolutamente sì, quello è importante. Adesso abbiamo molta libertà e cominciamo a suonare, sono le 22:20, primo pezzo per scaldare l'atmosfera, l'ambiente qui a Rock Wave stasera. Hate and Love, ok. Spera che mi giro un po'. Siete pronti? Ok, vale. Tutto a posto? Benissimo. Ci sono solo qualche secondo di tempo per costruire, per rimettere le cose. Tutto dal vivo, c'è poco da fare. Il bello della diretta. È il bello della diretta, ma è bello che sia così. C'è feeling, c'è passione, esatto. C'è sentimento, c'è trasporto. Ok, ci siamo. Ci sono. I'm looking for you or I. I never spent so many days, so many nights, that you catch your breath, that you bring me Blue Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo. Era una versione diversa, molto bella. Io non l'avevo mai sentita la prima volta, giuro. Ma a me il pezzo era molto piaciuto. Difatti, questo pezzo per un mese è andato in onda nella nostra emittente come pezzo lancio di questo disco. Però a me era piaciuto, grazie, particolarmente. L'hai fatto, è un pezzo che inizia in modo acustico, ma poi si sviluppa, cresce, e poi io ho scritto che hai una voce, noi della redazione, non solo io, la redazione ha scritto una voce profonda e potente. E questo si è sentito stasera profondamente e in modo potente, praticamente. Ho sempre avuto molta voce, molto volume, ecco. E questo è un grande pezzo, un pezzo ben costruito, e acusticamente l'avete cambiato, l'avete allargata, e poi ne avete dato l'impulso finale. Non è una jam session finale, ma quasi, insomma, si avvicina. L'idea di fare questa trasformazione nei due mesi è andata anche questa, praticamente. Esatto, è andata proprio così. Non c'è stata difficoltà, o c'è stata difficoltà da trasportare da un pezzo da disco a un pezzo in questa versione acustica? No, vai, all'unisono, Alberto insieme, dai, e Stefano, dai, tutti. Ma diciamo che è stata una cosa molto molto bella, perché siamo arrivati alla conclusione dei lavori del disco abbastanza stanchi, devo dire, e le canzoni ovviamente a forza di sentirle si erano un po' dentro le nostre orecchie consumate, e invece così è stato abbastanza naturale, ci voleva, è stato il momento giusto e le cose sono venute fuori quasi da sole, direi. Quindi una bella carica, quindi nella vostra dimensione ci potrà essere anche in futuro una dimensione acustica, o no? Sì, sì. Ci stiamo pensando. Anzi, o meglio, questo studio di due mesi per preparare le canzoni anche per poter essere acustici quando vogliamo. Infatti nel live adesso che stiamo proponendo abbiamo sempre 3-4 pezzi in acustico alla fine. Bello, bello, interessante. Per dare anche un cambio. E il live... Stefano diceva ci sono dei momenti jazz, ci sono momenti blues. Come si costruisce il vostro live? Come è fatto? Diciamo che i pezzi comunque saranno questi qua, quelli del disco, però ovviamente in mezzo ci saranno dei pezzi dove avremo più libertà, ok? Di esprimersi. Può essere l'esempio di Breaker nelle parti finali, quindi ecco che lì viene fuori proprio quello che siamo noi, al di là delle canzoni, no? Eseguite correttamente. La vostra attitudine musicale. Esatto. Quindi l'idea è comunque di dare emozioni, ok? Il live è anche questo, dare emozioni, no? Sì. Certo, quindi il lavoro più complicato per un musicista è trasmettere qualcosa a chi ti ascolta. Questo è bellissimo, questo è fondamentale, se no uno non va a fare il musicista. Esatto, Deve fare questo, deve trasmettere. Parliamo anche col bassista, che ha parlato poco, no? Adesso parliamo con un momento col bassista. Che impulso dà il basso a un gruppo così importante? Due chitarre, un basso, una batteria, fondamentale. Ma sai, dipende se stai registrando o se sei live. Cioè, la matrice è la stessa, però devi avere la capacità di dare delle linee essenziali e semplici nei dischi, per ovvi motivi. Mentre invece dal vivo c'è un bellissimo esempio detto da un bassista americano, che il bassista è come capitano di una nave che ti guida la nave fuori dagli scogli. Ho capito, chiaro. Cioè, abbiamo un po' in mano la dinamica di tutto il pezzo, di tutta la band, perché abbiamo sia la melodia da una parte che la ritmica, certo, da quell'altra. E infatti, se ci pensi, tutti i grandi gruppi di solito avevano un bassista, insomma, un gran bassista. Pensi, Police, c'era Sting, esatto, cioè Level 42, Beatles aveva Paul McCartney. Hai detto niente, appunto. Sì, molti diranno, è un bassista atipico, ma sì, era Paul McCartney, signore, e certi pezzi, quando li scriveva lui, si sentivano, c'era John Lennon, tutto quello che vogliamo, però il basso, sì, quello è un signor bassista, quello lì era fondamentale. Ok, dobbiamo salutare tre ragazze che ci seguono spesso e sempre, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, e il nostro direttore artistico Alberto, che grazie a lui stasera siete qua. Grazie anche Alberto. Ciao. Grazie. Ciao. Allora adesso facciamo un altro pezzo da disco. Cosa dite? Da disco, cioè da CD. Sentiamo un pezzo che avete scelto. Che traccia avete scelto? Vi ricordate? Abbiamo scelto Sometimes, la numero 3. Che è molto bella, ne parliamo dopo però. Ok. Perfetto. Sometimes I've stopped to look around. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, dobbiamo anche ricordare che sono le webcam accese, quindi vi stanno inquadrando praticamente, quello importante, vi stanno vedendo. E abbiamo sentito Sometimes, che è la traccia numero 3, che è una traccia molto bella, molto americana, molto californiana. E questi giri chitarristici, come l'avete creati? E Kay ha scelto, ha fatto il testo praticamente, però l'arrangiamento l'avete fatto voi tre. Sì, di solito il meccanismo è questo qua. Arriva con l'idea melodica della canzone, il testo, e noi cerchiamo di dargli una veste. Alcune volte andiamo verso le sue direzioni, altre volte un po' meno. Però è abbastanza una... senso di ne parliamo, non è che uno decide. Una cosa democratica, sì, sì, democratica, sì, sì, assolutamente democratica. Sì, sì, e alla fine, pezzettino per pezzettino, riusciamo a portare a casa la canzone, insomma. E questi intendimenti Sometimes come si sono sviluppati pezzettino dopo pezzettino? Ma Sometimes, io quando l'ho sentita la prima volta l'ho sentita subito, me la sono immaginata con la Cadillac lungo la Route 66, strade americana. E quindi mi è rimasto impresso questo sensazione, ho cercato di trasferirla poi dopo nell'arrangiamento del pezzo. Sì, un pezzo, come abbiamo detto, molto americano, giustamente che a microfoni spenti diceva che qualche radio americana, sei radio americana, sei radio americana, sì. lo stanno facendo sentire, perché sta molto di United States. Io ho detto West Coastiano perché a me piace la West Coast, io ho una certa età, ragazzi, quindi sono legato alla West Coast, però... E c'è qualcosa di questo America, ma un'America fatta bene, un'America bella. Beh, sì, un'America bella, un'America con le Stratocaster al limite, non c'erano, però un'America di quel genere, alla Tom Petty possiamo dire, ai Birds, quella gente là. Tu cosa dici? Sei un po' perplesso? No, stavo pensando a quando è nata questa canzone qua, a com'era in origine e poi a com'è diventata, ed è proprio... c'è stata proprio la fusione di quattro persone che sono assolutamente diverse, come certo, giusto che sia, com'è? È giusto così. E poi è nata. Ti dico, nell'ambito delle mie preferenze, sì, come musicista dell'album che abbiamo fatto, a me piace molto Hate and Love, che abbiamo sentito prima. Esatto. E Sometimes sembra un po' un pezzo, sì, americano, però sembra anche senza tempo. Se l'avessero fatto nel 70, nell'80 o nel 90, non ci cambia mica tanto. È vero, hai ragione, non poteva essere datato. E i pezzi senza tempo di solito sono sempre quelli un po' più vincenti, o meglio, mi auguro che sia così, poi sai. Sì. Comunque sì, come stile, come sonorità è assolutamente americano della parte ovest, sì. Californiano. Sì, sì, sicuro. E questo è Sometime, è la traccia numero 3 che un momento leggermente frena i pezzi. Poi riprende chiaramente, il vigore riprende, ma c'è un momento di quiete, non è dopo la tempesta, un momento di fase melodica, tra virgolette. Melodica, però c'è anche il batterista. Come ti sei comportato con Sometimes, visto che sei il batterista? È venuto fuori, diciamo, praticamente al primo take questo. Ah, ecco, quello è importante, il primo take. È venuta molto spontanea e quindi non so come mai. È andata bene, è andata bene sì, subito. Sì, sì, sì. Senza è partita problema. Subito e abbiamo fatto molto presto a registrarla questa qua. Una cosa ci siamo dimenticati, caro Kay. Il titolo alla Wettmüller del disco, che è molto lungo, ragazzi, dito molto lungo. Oddio, Shooting Stars and Marshmallow. Dicevo prima che è un titolo che riempie la bocca. Esatto, mi riempie la bocca. Molto americano, molto che riempie molto la bocca, è un po' una filosofia. Le Shooting Stars sono le stelle cadenti. Certo, sì. Perciò noi quando guardiamo le stelle cadenti pensiamo sempre, abbiamo dei desideri molto grandi. Giusto, cose irrealizzabili, quando in verità la cosa più piccola, che sarebbe lo zucchero, lo zuccherino, il marshmallow, sono le cose che ti dà veramente, ti fa star bene, giusto? Perciò nella marea, nella grandezza del mondo, noi siamo lo zuccherino alla fine, siamo una cosa piccola che però può far molto piacere. Esattamente, e a noi fa molto piacere suonare sul 22:38, l'altro pezzo adesso che suonate, il titolo? È un prezzo anche quello. È Breaker con un altro sostenuto, io ho scritto che è un pezzo sostenuto che cambia leggermente le coordinate. Adesso vediamo come le coordinate sono cambiate da parte di Paul Pancis. Tutto in diretta stasera 22:39 a Rock Wave. Eccoci qua. Thank you. side of a mountain, rolling the noise of a town. He just survived to something, death for what I've served. Steps into Jesus Christ pearls, waiting for someone to bless. He only knows where his right no fingers, turning around as an innocent. I wanna rise and make it, I wanna stop and break it. No, no, no, no. Dust of your past, so that you are and dust you remain, waiting for someone to call. He alone wants what is yours, nothing more. Walking around as an innocent, I wanna rise and make it, I wanna stop and break it. Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Sì, era venuta molto bene. Proprio, l'avete proprio cambiata completamente. Non dico completamente, ma al 90% sicuramente. C'è stata una esplosione, poi al finale, che bello il finale, live è sempre una cosa diversa, live sì. Trasforma le cose perché dà più impulso, più poi, voi siete live, un gruppo live, fuori le emozioni, no? E le emozioni, no? Esatto, voi siete un gruppo live, c'è niente da fare, sì. È tutta un'altra cosa, suonare in studio è bello, il disco è bello, interessante, però il live, ragazzi, dà impulso, poi quattro, l'emblema del rock sono quattro, il gruppo a quattro, anche a tre, ma a quattro ancora meglio, possiamo sì. Beatles, sì, sì, Doncet, sì. Quindi chiaramente, o i Rolling, altre cose. E volevo dirvi una cosa, questo è l'ultimo disco, il disco ufficiale, però qualcosa, c'è qualcosa prima, un EP che avete inciso, come si chiama l'EP? Oddio, l'EP come si chiamava l'EP? Plastic. Esatto, giusto. Bravo. È che l'ho sempre scelto io che non me lo ricordavo. Plastilin perché? Perché? Perché la plastilina è una cosa che si tocca con le mani, vero? Si forma. Mm. È un modo per dire qualcosa che crei con le mani, come la musica. Certo. Noi siamo molto legati alla musica, forse un po' più anni 70, meno elettronica, più suonata. Cioè, infatti non abbiamo strumenti elettronici, a parte le chitarre elettriche, però nel senso non suoni elettronici, ci piace proprio il suono un po' vintage forse delle cose. Come mai c'è questo, secondo te, che c'è anche un ritorno al suono vintage? Sì. Molto, vedi Pearl Jam, eccetera. Oddio, è nato tutto da lì. Perciò dopo giustamente si è evoluto in varie cose, però ognuno, grazie a Dio, è libero di scegliere la sua la propria direzione. A noi piace così. Sul discorso del live, quello che volevo dire è che noi siamo una band molto sentiamo molto le canzoni. Infatti quando le suoniamo viene fuori proprio quello che abbiamo dentro, la cosa più bella secondo me che ho trovato in loro. Vabbè, il cantante di solito è quello che si mette nella parte di più, però vedere i musicisti che lo fanno lo stesso è molto bello. È uno spirito, tu hai parlato dello spirito degli anni 60, 70. Ricordo, facciamo chiaramente un paragone assurdo, però per ricordare non si fa mai male, i Grateful Dead, che era un gruppo storico, che quando facevano un live totalmente il disco non serviva più, perché era totalmente, assolutamente diverso. Gente che faceva 8-9 ore di concerto, erano solo i Grateful Dead. Qualcuno dirà i maligni, ma non erano solo concerto. Sì, siamo d'accordo, non c'era solo il concerto, c'erano altre cose, non prettamente musicali. Però la forza della band è rimasta mitica, sì, c'è poco da fare. Incredibile. Purtroppo non ci sono più... non c'è più la possibilità di gruppi così di venire fuori, secondo me, proprio perché il mercato è diverso, il certo. modo di vivere la musica è diverso. Se prima c'erano i concerti come happening incredibili, adesso invece è diverso, tutto diverso, cambia tutto. C'è un altro maligno che ha detto, però i gruppi non hanno più voglia di faticare. Beh, cioè nel senso che... certi gruppi che arrivano adesso sono già predisposti da certe case discografiche, vanno in sala di registrazione, incidono il disco, ma non sanno suonare, ma o meglio, sanno suonare poco, non hanno l'esperienza dei live. La gente invece si forma facendo i live, suonando. Questo qua è un argomento che mi scateno. Vai. Io non lo sapevo, però ho fatto apposta. Perché c'è, possiamo andare a parte via allora. Che c'è una... C'è una sopravvalutazione dei musicisti adesso che è una roba pazzesca. Cioè, gente che sa fare tre note sono i nuovi fenomeni, capito? Cioè, ho capito. Non esiste proprio. E poi è anche il frutto della cultura di adesso, dei modelli che vengono proposti adesso. È quasi tutto un usa e getta, cioè c'è il personaggio del momento che lo portano lì perché ci sono tutti i suoi perché. Però dopo un anno e mezzo, due, non lo senti neanche più questo qui. Parlavi degli X Factor, gli amici praticamente. Sì, beh, io non volevo fare nomi fare perché nomi. Sai, non sapevo se si poteva o meno. Allora, cioè, c'è niente di male, abbiamo citato delle trasmissioni famose. Però se ci pensi è il risultato di tutte quelle cose lì. Cioè c'è gente che ha 20-21 anni che fa un disco e sembra che abbia fatto... la nuova opera d'arte, e c'è gente che ha 30 anni che suona, che si spacca la schiena da 30 anni, ma si sente però la differenza. Si sente nettamente. Certo, sono d'accordo con si te. Sente, nettamente. Sì. E poi, attualmente, in senso progressivo, andando indietro, sono sempre venuti a mancare i movimenti giovanili. Sì, ho capito. Cioè, non c'è più il substrato di un movimento giovanile che poi... porta anche ad un movimento musicale. Non so, mi viene in mente la Londra del 1976-77, il punk. Esatto. Appena finito il punk, la new wave. Certo. Oppure, vabbè, andando indietro negli anni 60, ai movimenti giovanili degli anni 60 e così via. Adesso che movimento c'è? Non esiste. Quello del computer e... La televisione ha distrutto, qualcuno ha detto giustamente che ha distrutto in parte la musica. Qualcun altro ha cambiato, distrutto, ha un po' dilatato certe cose, però se non ci fosse Sanremo, i La Cruz stasera qualcuno non li avrebbe conosciuti. Io li conosco già, però molta gente i La Cruz li ha conosciuti con Sanremo, sì. Questo per dire una cosa, però non è che sia una cosa giusta, è un po', è una cosa un po' ridotta. Diciamo che l'artista non deve essere solo la televisione, l'artista deve farsi sentire live, cioè la gente che deve ascoltare. Il discorso, ci sono ancora i musicisti, ce ne sono tantissimi musicisti che sanno suonare, suonano, vanno in giro e tutto. E poi ci sono musicisti prodotto, chiamiamoli esatto, così, che sono un prodotto, e un prodotto nasce e muore, nel senso, però di musicisti in giro ce ne sono tanti, di sicuro qui in radio abbiamo visto nel vostro sito, ne sono passati tanti parecchi musicisti. Sì. Musicista mica vuol dire uno che va in cioè, musicista è uno che lo sente dentro, può suonare anche non so, un giorno a settimana, però se lo sente dentro ed è quello che veramente ha, lo mette in musica, quello è un musicista per me. Certamente. Adesso sono le 22:50, facciamo un altro pezzo live e poi faremo il famoso gioco dell'isola deserta. Ah. Ok, cosa ci fate sentire adesso? Il prossimo pezzo è un pezzo un po' particolare che si chiama Bleed. Ah, ho capito, sì. Siamo la paletta. La paletta, stiamo sempre sentendo i Palno Pansis, tutto dal vivo assolutamente, 22:50 Rockway con la regia di Michele Tosò, al microfono Maurizio Calzavara e i nostri ragazzi di Verona che adesso ci fanno sentire dal vivo sempre un altro pezzo dal loro album. I don't wanna feel so Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, mentre il pezzo andava, mi è venuto in mente una cosa. Vi ricordate i Kennedy Heat? Un gruppo storico degli anni fine anni 60, inizio anni 70. Avevo quei finali con l'armonica e via, tutto vapore. Ecco, mi è venuto in mente sta roba qua. Il Kennedy era un grande gruppo americano. Che poi i Rockets hanno ripreso il loro pezzo famoso in versione leggermente diversa. I Rockets sono il famoso gruppo francese dei tutti pitturati. Esatto. Tra l'altro, il leader dei Rockets qualche mese fa è venuto qua a suonare da noi. È sempre parte della nostra etichetta, lui. Esattamente, esattamente. Ok, sono le 22:55. Adesso c'è quel giochino famoso dei dischi da portare su una deserta che molti ascoltatori conoscono, dopo ne facciamo da tanti anni, ma è sempre nuovo perché è sempre diverso, è sempre interessante secondo me. Stasera siamo in 4, 5x4, 20, facciamo 4x3, 12 dai, un 3, po' meno, 3 a testa così vi lascio un po' più spazio. Ok, da chi partiamo? Ma potrei partire io, dai. Dai, Kay, parti te, dai. Oddio, è difficile perché di musica ne porterei tanta. Credo che porterei di sicuro porterei Pearl Jam di sicuro. Quale dei Pearl Jam? Ten, il primo disco. Ah, il primo, il grande Ten che è stato ristampato recentemente. Perché il Pearl Jam? Perché Ten? Perché questo il 10 primo disco, io li ho scoperti nel 91-92, sono stati quelli che mi hanno dato il coraggio di provare a cantare. Eddie Vedder. Sì, perciò da lì per me è stato, insomma, ho sempre seguito un po' cosa stanno facendo, infatti sono un fan loro. Poi credo che porterei Doors. Quale dei Doors? Tutta la discografia oppure uno qualsiasi? Se potessi porterei tutta la discografia. Non sono tanti dischi di Doors. Non sono tanti dischi, forse porterei Morrison Hotel. Ecco, non è il disco del finale della carriera dei Doors, come mai Morrison? Il grande successo praticamente. Ci sono dei gran pezzi. Ci sono dei gran pezzi che hanno segnato generazioni, che fanno sognare ancora e che hanno una poesia incredibile. Io porterei il primo, intanto sta andando il Pearl Jam in sottofondo, fanno sempre bene, Eddie Vedder fa sempre bene. Ritornando al momento di Pearl Jam, hanno quella caratteristica che ogni disco è diverso. È diverso e hanno una grandissima forza. Esattamente. Sono una delle poche vere rock band, secondo me, che esistono ancora al giorno d'oggi. Insomma, hanno fatto tanti dischi e è sempre di valore. E fanno dei bellissimi concerti. Certo. Concerti che durano, che sono molto belli. E poi come terzo album sarei tentato di portare qualcosa di nuovo, tanto da dire, però non lo so, è difficile. Forse Jeff Buckley porterei. Ecco, abbiamo sentito prima di cominciare il programma, Jeff Buckley è sempre amato da tante band che vengono qua a suonare, perché nonostante che abbia fatto un solo disco Grace, tutte le altre erano dischi postumi, ha lasciato il segno anche per la sfortuna, alla fine. Esattamente, che questo Mississippi che l'ha inghiottito, sì. Non si sa come, questo alone di leggenda, sì, come tutte le morti nel rock, nel senso, esatto, tu hai detto così. Sì, porterei quello, anche se insomma avrei una lista molto più lunga. Molto più un'altra lunga. Volta ci troviamo e te la dico tu. Esattamente. E intanto Jeff Buckley, dovremmo citare anche leggermente suo papà, Tim Buckley. Che ha dato il DNA a certe cose. Anche lui dei grandissimi. Ah, ha fatto dei dischi meravigliosi. Meravigliosi. Difficili ma meravigliosi. Anche lui ha fatto una brutta fine. Non c'è niente da fare. Io sono un fan di tutti, nel senso, anche di Tim Buckley, molto. C'ho tutti i dischi, molto. Beh, io ne ho, sì, quasi tutti anch'io. Era grande anche lui. Ovviamente. Chiaramente di stampe, però io avevo. No, gli originali sì all'epoca, però era un genio anche lui, un grande genio. Un po' difficile però stavolta. Un po' difficile, un po' sfortunato. Un po' sfortunato. Non ha avuto il grande successo che forse meritava, ma erano degli anni anche molto difficili. Esattamente, anni un po' particolari. Tocca adesso. Alberto, allora. Beh, anch'io confermo che ne porterei una valigia di CD. Lo so, abbiamo solo tre per stasera. Ecco, direi Kind of Blue di Miles Davis. Ci fermiamo un secondo. Come mai questo capolavoro assoluto? Perché secondo me è un disco assolutamente magico. Dalla musica ai suoni, all'interpretazione, all'improvvisazione, non mi stuferò mai di ascoltarlo. Posso portarlo anch'io? No. No, però se vuoi te lo presto sull'isola. Andiamo insieme nell'isola. Esatto. Quindi Miles Davis praticamente. Esatto, dopo porterei la discografia dei Beatles. Una a caso. Una a caso. E beh, perché insomma c'è scritta tutta la musica che dopo è stata scritta, loro l'avevano già, come dire... Sì. Preparata, giusto, qualcuno ha detto Elvis e poi Dylan e i Beatles praticamente. Dylan in America, i Beatles in Europa, esatto. Però dobbiamo dire una cosa, gli ascoltori non sanno, ma prima di iniziare il programma Alberto faceva, puoi fare un secondo Piggis, certo. un secondino solo, questione di qualche attimo. Ragazzi, non potevo, era troppo bello. Questo è un altro capolavoro. È un altro capolavoro. E poi abbiamo scelto come un terzo... live dei Cream. Ah, un live dei Cream. Qualsiasi. Tu sei molto amante dei Cream. Secondo me sì, assolutamente. Boh, poi dopo non hanno lasciato forse moltissimo seguito. E non c'era i Cream. Però, però sì, assolutamente. I Cream è un gruppo straordinario. Tre geni. Tre geni possono convivere, secondo te? Sì, perché come nel loro caso, secondo me, si sono trovati nel momento giusto. Poi dopo, infatti, il momento è finito ed è finito anche il gruppo. Però capitano quelle magie in cui quelle tre personalità si trovano e riescono insieme a creare qualcosa di veramente unico. Che poi, secondo me, dopo non ha più lasciato... hanno toccato vette anche del modo di concepire la musica che poi non... Lui è andato con John Mayer, poi è andato con i Cream, poi è andato con Derek and Dominus, poi è andato... E poi è andato. Si parla di Slow End, chiaramente. Tocca a te adesso, vai. Tocca a me. Io sono più, ovviamente, batterista. Sei batterista. Quindi... Però sempre pensavo... in piedi stasera, eh. Sì, sempre esatto, in piedi. Devo crescere, devi allora. Crescere. No, pensavo a Miles Davis e io porterei Beach Brew. Anch'io avrei portato quello. Sì, perché secondo me, io che ascolto tantissima fusion, sono nato con quella, quindi mi ricorda un po' lo stravolgimento del jazz. Sì, ok. Vero. E quindi secondo me mi dice molto quel disco lì. Poi porterei un disco qualunque di Dave Weckl, ovviamente. Perché ovviamente. Uno qualunque, è lo uno stesso. Uno qualunque. Quello che c'è. Esattamente. E poi? Tra i tanti porterei Tambu, l'album dei Toto. E non Four? No, porterei no. Tambu perché... Perché come mai quello e non... Gli ascoltatori e diciamo che era a parte il live prima, Absolutely Live, certo, diciamo sì. Che è l'era di Simon Phillips come batterista, ho capito. Quindi mi ha lasciato già qualcosa dentro lui, insieme gruppo, a tutti gli altri, sì, ovviamente. Un gruppo straordinario di grandi turnisti, sì, possiamo dire, sì, questi Toto. Che tra l'altro adesso vengono a Verona, quindi esattamente, sono... proprio a casa. Per la prima volta andrò a un concerto a piedi. Ah, quanti concerti hai visto, a proposito? Tanti. L'ultimo, dal 93 che in poi. L'ultimo che avete visto? I Muse. Ah, i Muse avete visto? Sì. Come sono dal vivo i Muse? Straordinaria, hanno una potenza sonora incredibile. Sì. Sono già bravi sul disco, però nel live ancora di più. I Muse sono molto bravi. Sì. Ok, tocca a te adesso. Arriva il fenomeno per lui. No, a parte che, vabbè, come loro anch'io ne porterei una valigia. Certo. Mica solamente tre. Allora, come album... pausa teatrale, così credo. Come album Regatta de Blanc dei Police. Ah, come mai Sting e Soci praticamente? Perché loro sono venuti fuori quando io ero in piena adolescenza e pertanto... Ti hanno lasciato il segno. Allora, come album Regatta de Blanc. Sì. Esattamente. Michele ha subito... Dove, quei momenti di sospensione erano utili a Michele per pescare i Police, hai capito? Poi mi sembra che si chiami così, dovrebbe essere London Calling dei Clash. Dovrebbe, è sicuramente London Calling dei Clash, dobbiamo stare tutti in piedi. Io sono già in piedi. Sei a posto. E poi una raccolta di Jamiroquai, o come si dice correttamente, Jamiroquai. Mm. adesso in classifica con il nuovo album. Cosa ne pensi del nuovo album? Del nuovo? Ma o delle Ferrari qua, che in giro. Sì, però l'avevano, per motivi discografici, commercializzato un po'. Sì. Infatti lui ha ritardato, insomma l'entourage. Ha ritardato nettamente l'uscita, proprio perché non gli permettevano di far uscire quell'album. Ho capito. Perché è effettivamente è molto più suonato rispetto agli ultimi o penultimi che aveva fatto. Io l'ho preso appena uscito, mi sembra sia uscito il primo novembre, il 2 novembre. Sì, esattamente. Appena uscito l'ho preso perché li ho tutti, mi piace. Certo, funk, certo. Quando tu prima dicevi, ma avete questa vena un po' funk? Probabilmente sono la colpa è un po' mia, perché ogni tanto glielo metto dentro. E questo album qua mi è piaciuto tantissimo. Vedi. Devo dire la verità, mi è piaciuto tanto. Ecco, qua sono sottofondo, i genoni qui. Hanno le Ferrari, non si vedono le Ferrari proprio per dire. No, perché lui è un grande, grande collezionista. È beato lui. È beato lui, è un grande collezionista. Sì, effettivamente alcuni critici l'hanno un po' tartassato questo disco. Non sono stati invece ecco, vedi, un conto è come dire, la commercializzazione di un prodotto, poi quando vai a domandare a persone che invece magari suonano pure loro, certo, non agli stessi livelli per carità, però musicisti, hanno spesso opinioni contrarie a quello che dicono gli altri. Sono d'accordo con te. Venirà a suonare tra pochi mesi qua da noi, mi pare. Sì, dovrebbe venire, penso, alla fine di marzo. Esatto, sì. Quindi tra poco. Fra poco, esatto. Verrà a suonare qui. Mantova e Milano. Esattamente, quindi in Italia. Mantova è vicinissimo, si fa presto a vedere. Però anche a Milano, se uno vuole andare a vedere una persona, non ci sono le distanze. No, assolutamente. Ci va e basta. Esatto. Esattamente. Sono le 23.06, io propongo un altro pezzo da disco, mi pare che abbiamo ancora un pezzo da sentire. Ti ricordi che il titolo? Mr. Driver, la numero 6. La numero 6, la sentiamo e poi ne parliamo, ok? Perfetto. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Questo era un pezzo molto potente, molto cattivo musicalmente parlando, violento, cioè che dava forza, che dava vigore. L'idea di creare un pezzo simile, come è nata, come si è sviluppata? Chi parla per Beh, prima? È una storia, un po' una fuga, nel senso parla di una persona che vuole scappare, infatti il ritornello dice run away, run away, run away, run, cioè scappa via. È una storia abbastanza dura perché c'è anche la pistola in mezzo, c'è una situazione di disagio che però può essere una situazione anche mentale, magari vuole scappare da una situazione mentalmente. È nata in questo modo, dopo Alberto ha tirato fuori questo riff molto potente, è venuto fuori appunto il grosso della canzone, ecco. Ma sei kryptoniano oppure no, visto che ami Cream sfiscerà esattamente? Beh, ma sì, però in realtà sono un amante della musica un po' a tutto tondo. Okay. Quindi non ti sei fissato su Clapton? No, assolutamente. No. Guarda che il Clapton dei Cream era un altro Clapton, chiaramente. Gli anni passano per tutti, sì. Anche se è sempre un mostro, però insomma. Allora, ritornando al discorso, è un pezzo duro, violento, anche musicalmente un pezzo sostenuto. Sì. È un pezzo che è stato uno dei primi pezzi anche forse che abbiamo scritto. Che avete scritto. Che abbiamo risistemato, nel senso. Ci è venuto abbastanza di getto anche, rispetto ad altri che abbiamo dovuto lavorarci di più. Se abbiamo lavorato di più, questo è venuto abbastanza naturale a tutti. Mm-hmm. Questo è, infatti si sente anche nel disco e poi nei live ancora di più, perché nei live ci diamo qualcosina dentro. Abbiamo un grosso impatto sonoro, ecco. Di solito è la prima canzone che facciamo. Ecco, volevo chiedervi, questa è la prima canzone che sì, facciamo? Sì, di solito, cioè, sì. Sì, però non partiamo mica subito, eh. Ah, cioè, come fate? Cioè, sai che quando c'è l'inizio parte Stefano sì. Con la rullata, sta tutta la buddada. Certo. Abbiamo fatto un piccolo intro dal vivo che è un po' psicadelico. Bene. Poi entriamo dentro. Giusto per creare un po' così, no? Di suspense. Suspense, praticamente. Sì, è bello, è interessante quella. Cioè, l'avete cambiato, ma è giusto che sia così il pubblico. Però bisogna stare attenti su certe cose. Qualche volta il pubblico trova un po' di difficoltà quando i live sono esasperati, nel senso che cambia totalmente il pezzo. E c'è un problema, o no? Beh, noi abbiamo ancora un piccolo seguito, perciò possiamo abbastanza essere liberi di fare quello che vogliamo, anzi credo che siano più contenti loro a sentire anche cose nuove, perché insomma diciamo che come gruppo dal vivo abbiamo una grossa forza. Dal vivo forse suoniamo meglio che sul disco, almeno per adesso. Ho capito. Visto che ci siamo, parliamo di live, citiamo le date, se vi ricordate delle date. Sì, abbiamo, allora, la data più prossima che abbiamo è il 25 marzo a Verona. Quindi, suoniamo poco, al prossima settimana. 59 e poi suoneremo a Busseto a metà maggio. Bene. E poi dovremo partire, perché le date non sono ancora tutte certe, per l'Irlanda, dove faremo un piccolo tour. Ah, bene. Di 7-8 giorni, organizzato con dei musicisti del loco e insomma queste qui bene o male sono le date di adesso. Poi ripeto, come dicevamo prima, in Italia è un po' difficile trovare delle date anche di un certo genere, perché ovviamente noi cerchiamo di valorizzare la nostra musica cercando di suonare in certi locali in cui sappiamo che ci possiamo trovare bene, ecco. Ho capito. Momento, ci chiama un momento l'etichetta, la produzione, eccetera? Sì, parlo sempre io, sì. Allora, l'etichetta, cioè, se non ci fossero stati loro non avremmo fatto il disco. Anche perché il discorso è nato così, noi abbiamo fatto un demo e questo demo è piaciuto molto all'etichetta, che è The Lutz Production, sono dei ragazzi di Parma, molto in gamba. E insieme The Last Production e SFEM, che sarebbe Sara Ferrari Edizioni Musicali, è piaciuto il nostro prodotto e allora hanno detto: ragazzi, volete fare il disco? Abbiamo detto sì, noi vogliamo fare il disco, e allora ci siamo messi sotto e abbiamo registrato in parte nello studio di Stefano e in parte allo studio della Last Production, che è giù a Parma, che è un bellissimo studio, si chiama Il Mulino, e in parte a Modena abbiamo poi fatto il mixaggio. Di tutto questo è venuto fuori poi il che Myself, che sarebbe il singolo, è stato remixato da Stefan Bowman, che è un produttore svedese di Kent e la Copter dei No Keys, sì, appunto, che sono sempre la nostra etichetta, perciò insomma c'è stato un vanto anche di questo. Quindi una produzione anche internazionale, anche noi credo che siamo più internazionali, sì, che non, insomma, questa è la nostra direzione, un po' uscire da... Mirate ad uscire oltre dall'Irlanda, c'è qualche prospettiva, non so, Germania, Olanda, eccetera? Beh, di sicuro l'Europa, Germania, Nord Europa, seguendo anche i No Keys, perché siamo anche amici, e poi noi abbiamo il sogno di andare a suonare in America. Beh, non si sa mai. Si sta parlando del 2012, vediamo un po' se riusciamo a farlo. Sarebbe una cosa meravigliosa. Sì, veramente. Decisamente. Ok, 23:15 è l'ora di suonare qualcosa adesso. Cosa? Suoniamo 2:43. Ah, a proposito, parliamo un momento di questo pezzo, perché ho scritto nella recensione che mi ricordava 5:15 dei Quadrophenia dei Who. Non ha nessuna attinenza, però dal punto di vista dei numeri mi è venuto in mente quello, anche se 2:43 corrisponde al minutaggio del pezzo. Anche al minutaggio. E a cosa corrisponde oltre al minutaggio? E in verità è molto semplice, l'ho scritta, mi sono svegliato di getto alle 2:43, ho preso la chitarra e l'ho suonata. Perfetto. Così, molto semplice, e quando ho finito di suonare erano le 2:43. E allora mi sono svegliato così. C'è gente che si mi sveglio suonando la chitarra. Bello così. C'è tappa. No, esatto, io non vado neppure a letto, se mi direttamente ho tutta la nottata e vado a lavorare compreso. Ok, sentiamo allora 2:43, questo pezzo molto, molto rocchettaro, esplosivo, 2:43 di violenza sonora, ho scritto così nella recensione, e la redazione l'ha interpretato così. Partiamo, è molto molto positivo, molto essenziale, la musica rock, assolutamente. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Non ho guardato il tempo, non so se era 2:43, ma sono stato 2:45, possiamo dire qui. Cioè, un pezzo che ha la caratteristica di essere, come si dice, mangiato, per modo di dire, immediatamente. divorato immediatamente musicalmente parlando, perché doveva essere così. Ti sei svegliato in 2 minuti e 43, l'hai inventato, insomma. Sì, è un pezzo da prendere così, un po' punk, un po' veloce, diretto, finto, molto veloce, distruttivo nel senso positivo del termine, fa muovere la gente quando vi ascolta, e può essere aprire o per chiudere la finestra a seconda dei momenti, o no? Sì, è un pezzo così veloce che è di molto di impatto. Poi la sensazione è quella finale, poi l'abbiamo allungato, lo facciamo molto più tenero, proprio certo, per dare questa distanza tra le parti. Però va bene così. In ogni caso è un pezzo che deve essere, pezzi punk duravano 1 minuto e 50, 2 minuti al massimo, era la caratteristica del pezzo punk, però riveduto corretto da voi, è un po' punk, un po' tirato per i capelli, cioè un vostro pezzo e basta, poi facciamo tanti discorsi, ma quella è la vostra caratteristica. Sì, esatto. Esattamente. Ok, sono 23:20, stiamo dialogando con i Paul Non Punches su questo loro album di esordio, è una bella copertina, come mai questo clown in copertina? Chi ha avuto l'idea del clown in copertina? È sempre lui, sempre Camillo. La copertina mi piaceva molto, il discorso di avere un rappresentante dell'arte come il circo in primo piano, e noi siamo dietro sfocati, vero? C'è un incrocio di strade, perciò ritorna al discorso del blues, dove sai il discorso degli incroci di strade a mezzanotte, vabbè quello non è proprio era mezzanotte, però diciamo che io ho avuto l'idea, poi c'è stata la nostra fotografa ufficiale che si chiama Claire Adams, che è una bravissima fotografa, che lavorando con lei abbiamo tirato fuori diverse foto, tra cui quella del clown in primo piano. Il clown, fra parentesi, lo salutiamo, che si chiama Fabio Vidali, è un grandissimo sassofonista e musicista del gruppo Una Vez, che suona molto in giro, molto bravo, e è venuta così. Mi piaceva questa rappresentazione dell'arte, un po' perché il circo è molto romantico e secondo me noi dobbiamo essere un po' romantici ancora al giorno d'oggi. È vero. Salutiamo un momento Gianluca, che è della radio RCS di Verona, che ci sta seguendo via webcam. Salutiamo, ciao Gianluca, ciao Gianluca, che è stato protagonista di una trasmissione con me e verrà nei prossime puntate a fare un'altra trasmissione con me, un grande esperto di musica, bravissimo, molto molto, sa un sacco di cose, un'enciclopedia, esatto, un'enciclopedia vivente, bravissimo, ciao Gianluca. Poi salutiamo anche Rico, che vi dice questo: complimenti perché proponete anche versioni acustiche che spaccano, che danno vigore. Grazie, grazie Rico, grazie mille. Benissimo. E si muove musicalmente, la gente si muove perché il live fa muovere la gente. E la batteria cosa fa muovere, Stefano? Quando sei online, ti danno lo spazio per andare oltre al dovuto, oppure no? Sì, assolutamente sì. Quindi diciamo che fa muovere l'anima, muovere l'anima. Diciamo questo, dai. Non so trovare altri termini migliori, insomma, di questo, quindi... No, poi all'interno i miei spazi, le mie idee, come ad esempio 2.43, ho messo questa idea di questo tempo scomposto, quindi a me per piaceva. Per gli ignoranti cos'è il tempo scomposto? Tempo scomposto è quello che... Ignoranti come me, esattamente. È difficile da spiegare, diciamo che non è a tempo, è una cosa che senti strana, ok? Siamo abituati sempre a sentire un tempo che è questo qua, e sentirlo diverso... non so come dirti, una battuta di in più o in meno, sì, uno spostamento di accenti, ecco, dell'accento naturale che di solito si sente e Kate Moon che tempo aveva? Molto scomposto, molto decisamente scomposto, specialmente sui tom timpani. Poi c'è un video che mi piace moltissimo, che un live dove ha addirittura un timpano dove ci sono i pesci dentro con l'acqua, quindi era un tipo particolarissimo, fuori di testa, sì, completo. Sì, sì, assolutamente. Però aveva, cioè, l'immagine degli Who, la ritmica degli Who, era lui, c'è poco da fare. Oltre al bassista, che era un bassista come si metteva, era un perfetto inglese, era immobile, un gran musicista, musicista era straordinario, arrangiatore, era immobile, però era straordinario. C'è un telefono che suona. No, veramente grandi musicisti, ovviamente non si può dire niente. Il bello è che comunque se riascolti i classici che hanno fatto loro, ma anche quello che stanno facendo vedere su serie televisive, no? Certo, sì. È che comunque hanno i suoni attuali. Vero. Cioè, nel senso, non sanno di vecchio. E questa è la particolarità. Che comunque noi adesso, io parlo da parte di batterista, sì, tendi sempre ad andare a ricercarlo comunque quel suono lì, che è difficile. Chissà perché non si riesce a ricreare, come una volta. Forse manca la bulla con i pesci dentro, magari anche quello, la prossima forse... registrazione metterò un po' di pesci in giro per lo studio. Che parlava prima della generazione dei movimenti, non c'è più il movimento forse generazionale che creava determinati suoni, determinati stili. Esatto, sì, ma niente sicuramente. Di negativo, io sono sempre dell'idea che bisogna guardare avanti, no? Certo, sono un po' bisogna sempre evolversi, come ha fatto un po' Miles Davis, sì. No? Negli anni è partito da un stile di jazz, ne è arrivato un altro, quindi uno degli ultimi album, adesso non mi viene in mente i nomi, con già con Marcus Miller, sì. Cioè già cambiava, entravano le elettroniche, cioè si è messo veramente in gioco tanto. A me piacciono queste persone qua, questi artisti qua, perché è giusto rivoluzionarsi sempre, no? E poi ha raggiunto dando sempre un'occhiata al passato, certo. E poi ha raggiunto il grandissimo pubblico rifacendo Time After Time di Cyndi Lauper. Sì. La fa di modo meraviglioso, però anche quello serve. Assolutamente. Ha avuto sempre un successo strepitoso, però non solo per gli additivi ai lavori, ma quell'album là ha raggiunto i testi delle classifiche mondiali perché aveva riproposto il pezzo di Cyndi Lauper, che è un pezzo meraviglioso, c'è poco da fare. Ok, 23:25, abbiamo ancora tempo. Non so se ci sia in scaletta o qualche pezzo da disco. Non ci sono più, suoniamo allora. Cosa volete suonare? Esatto. Suoniamo Soul to Squeeze. Ah, ok, benissimo. Ci prepariamo. I live sono sempre così, bisogna prepararsi. Ma è bello, tutto in diretta, tutto lo webcam è tutto a posto. E sempre il Paul non punches qui dal vivo. Yeah. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, eccoci qua. Siamo sempre dal vivo, sempre in diretta col Porno Punches. Questo è un pezzo molto in particolare. Noi abbiamo parlato nella recensione della voce di Kay, che è una voce potente ma qualche volta oscura, un po' tenebrosa. E qua fai vedere che sei un po' tenebroso musicalmente parlando. Io la vedo come una forte sensazione. Questa è una delle canzoni più che sento di più. Mm. E in verità è nata in una maniera molto molto allegra, perché è nata in una cucina mentre stavamo cucinando. Benissimo. Perciò la ripetiamo, diciamo, ripetiamo il titolo. Soul to Squeeze. Esattamente. È tenebrosa in certe parti perché ha molto sentimento dentro. Questo è la sua forza. Come dicevamo prima, il romanticismo. Questa è una canzone romantica di sicuro. Un po' decadente, possiamo dire. Come romanticismo. Come romanticismo, certo, siamo perfettamente d'accordo. Ci può stare. E come la fate dal vivo? Adesso l'avete fatta in fase acustica, assolutamente acustica, acustica molto, non dico rilassata, ma che fa pensare, ecco, possiamo dire. È questo. Molto, di solito la tiriamo abbastanza questa canzone, no Alberto? Beh, lui l'ha tirato sì, un pochettino. Assolutamente. Sì, sì, questa qua, a parte l'introduzione che è molto, forse un po' psichedelica, potremmo dire, dal vivo, poi dopo tutto il resto del brano diventa molto carico e molto pressante, anzi direi che forse il ruolo principale del pressing, se possiamo chiamarlo così, c'è Ronnie col basso, sì. C'è una parte di basso fantastica su questa canzone qua. È quello che diceva prima, che se non c'è il basso noi andiamo sugli scogli. Esattamente. E una cosa volevo chiedervi è questa: quando fate un pezzo dal vivo c'è la possibilità, il pezzo va avanti, poi ci sono 2-3 minuti in cui Ronnie, te, Stefano e Alberto giocano un qualche secondo da solista oppure no? Sì, beh, non dico quasi tutti i pezzi, però ognuno ci sono degli spazi, dopo allargano gli orizzonti. Sì, allarghiamo perché appunto è giusto dare degli spazi. L'unico che non ha spazi sono io, però. Tu hai spazio con la voce praticamente. Sì, ci sono degli inserti magari un po' più tecnici, no? Ho capito. Più che virtuosismi solistici, che per il genere che facciamo è più dedicata alla chitarra, no? Cioè, certo, il solo. Certo. Stefano ogni tanto mette delle cose piuttosto tecniche, anch'io ogni tanto, non più di tanto, perché anche lì bisogna dosare, no? Cioè, equilibrare, sì. Ci deve essere la ritmica che tiene sempre lì, sempre lì, sempre lì, poi ogni tanto fai una deviazione tecnica per poi rientrare dentro, no? Cioè, è giusto anche per deviare un attimo l'attenzione di chi ti sta guardando, ascoltando. Certo. Noi quando suoniamo di solito ci guardiamo molto, che è molto importante, perché alle volte succede che non so, uno salta una parte o si allunga una parte, allora guardandoci ci capiamo. Vi capite immediatamente. Sì, riusciamo anche ad allungare le parti guardando, magari fai tu la parte, insomma ci capiamo. Questo è tutto frutto qui del lavoro. Qui non c'è nessun imbarazzo praticamente. No, è frutto del lavoro, noi lavoriamo molto, siamo una band molto attiva, nel senso come lavoro, non ci tiriamo indietro e perciò questo aiuta di sicuro. Cioè, è fondamentale, questo è fondamentale. E un'altra cosa che volevo chiedere è questo: le tracce del disco le avete messe così a caso, io non penso, oppure prestabilite come dovevano essere prestabilite? È una domanda difficile questa, una domanda complicata. Non mi ricordo bene se l'ho decisa io o l'abbiamo decisa insieme, sinceramente. Le tracce del disco. Diciamo che è stato abbastanza travagliato. Una cosa, avete fatto l'ordine un po' dei brani. Dell'ordine dei brani, perché è fondamentale l'ordine dei brani. Sì, assolutamente. L'abbiamo messa giù un po' a sensazione, secondo me. Cioè, come ci sembrava che fossero giuste. Sbagliando o no, non lo so, però sono state messe giù a sensazione. Ah, ok, a sensazione. Io ho una bella sensazione di quel pezzo che voi non fate stasera, purtroppo, che Tomorrow... Yesterday and Tomorrow. Quello, possiamo metterlo su da disco? Va bene. Che traccia ti ricordi? È la 7, se non sbaglio. La traccia numero 7. È un pezzo molto bello, complicato, musicalmente complesso, e che purtroppo stasera non si può fare per motivi tecnici. Non la voglio suonare stasera, abbiamo provato. La tengo per la faccio apposta, la suono nei live, però, la suono nei live quando viene richiesta, perché è un pezzo in cui loro non suonano, perciò non è semplice suonare un pezzo così in un live dove noi abbiamo pompato tutta sera per tenere sulle persone, e poi è un pezzo è molto bello. La sentiamo un secondo, è molto bello, molto bello. Looking for an excuse to drive down to you with this moon watching my back. I whip the sound of your goodbye. Is this the right time or not? You don't know what else has become. On your front door, with all this world sinking my soul, afraid to lose you again, again and again. So close your eyes, do close mine. So close me. Sound and time to sleep away. You continuously looking at your watch. It takes my mind all the way. Forget the past and start again. How can I? Like the shadows on my steps, even if I try, everything is coming back. But today I wish I was yesterday. But today wanna be you tomorrow. What would you cannot forget? Silent, please. You push me down, then take me up. You turn me off, then turn me on. You push me down, then take me. Everything is coming back. So close your eyes. Oh, I do close mine. So close me inside. Oh, be you. But today tomorrow. up down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down down. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Stiamo piacevolmente conversando con Paul No Punches, presentando il loro album. Un bel percorso praticamente. Questo è un disco, pezzo molto particolare, che canti solo te, canti sempre, però sei da solista praticamente, in tutti i sensi, in questo tutto pezzo. I sensi, sì. È un pezzo con molto pathos, molto trasporto. Poi, sì. Poi alla finale sforzi notevolmente. Sì, cerco di andare su proprio nell'esplosione delle corde. Poi dicevo prima graffiare. A me piace graffiare con la voce. Con la voce. E cerco di andare su cercando di tenere lo stesso quel mio modo di cantare. Ecco. E fai una bella sudata allora. Eh sì, è molto dura. Precisamente. Molto dura. Decisamente. Però è un pezzo significativo, fa parte chiaramente sempre dell'album ed ha una dimensione ancora diversa. Sì, diciamo, quello che il bello di questo album qua, che è Shooting Stars and Marshmallow, è che è vario. Ci sono tante cose dentro, cioè non è una cozzaglia di cose che potrebbe essere dare un significato sbagliato, però ci sono tanti sentimenti dentro, tra cui anche quello di Yesterday and Tomorrow, che è un pezzo molto drammatico su un certo senso e potente di sentimento anche questo. Giustamente tu hai detto, mentre il microfono era spento, che è una ballad, sì, ma non una ballad, non quella tradizionale, una ballad anticonvenzionale, possiamo dire. Sì. Una ballad sì, però non come si usa spesso. Sì, non mi piaceva fare una canzone del genere, volevo dare un pezzo di energia anche senza gli strumenti che di solito danno l'energia, perciò basso, batteria e chitarra, certo, elettrica, ecco. Tu che vieni dall'Irlanda, le ballad in Irlanda, sì, ormai è una, sì, parte delle ballad. Infatti molto folk. L'ho scritta là. Qua folk non c'è però, assolutamente. O qua appena accennato. Dio, forse c'è c'è un po' di tante cose anche qua, sono tutti accordi aperti la maggior parte, perciò non c'è una tonica, cioè non c'è un accordo principale, è più ritmico quasi. Suono la chitarra quasi come un tamburo più che altro. Mi dicevi che fate 7 date in Irlanda, praticamente un tour? Sì, diciamo una che settimana, stiamo via dai 7 ai 9 giorni, adesso le date non sono ancora tutte complete, però quella è l'idea. Insomma. Girate l'Irlanda praticamente? Gireremo l'Irlanda, sì, in toto. Bene, una cosa molto positiva. Sì, sì, siamo molto contenti di farlo e speriamo ci vada anche bene. Speriamo che non sia l'inizio di tanti altri giri anche fuori dal nostro paese praticamente. Diciamo, quella è l'idea. Perché nel nostro paese c'è la difficoltà a suonare live pezzi di band emergenti o pezzi vostri, perché c'è il solito discorso delle cover band, adesso esce il nuovo di Vasco il 29 marzo, quindi ci sarà una salva di cover band che suoneranno il nuovo di Vasco. E purtroppo è così, qui si ragiona su questi termini. Ci si può cambiare, però ci può tentare di cambiare. Bisognerebbe dire a chi ha ai gestori di locali di investire un po' nella musica alternativa, della musica delle persone, perché di musicisti bravi ce ne sono. Certo. Aiutiamoli, aiutiamoci. Perché purtroppo in Italia, cioè, il musicista non viene considerato un lavoro, invece è un lavoro a tutti gli effetti. Sì. È lasciato da parte. Cosa fa il musicista? Ma è un lavoro. Mentre negli altri paesi fuori dell'Italia, il musicista giustamente è un lavoro. Basta, chiuso. E c'è questa convenzione, questa idea, che si può cambiare, ma ci vuole tanto tempo. O forse non si può cambiare. Ma non lo so. Cioè, in Italia ci sono dei posti bellissimi, ci sono dei locali fantastici dove si suona e ci si diverte. Però diciamo che sono meno magari di altre nazioni, dove forse anche la musica viene percepita in maniera diversa. Io ho seguito il tour dei No Kiss in Danimarca e Svezia, certo, per dire, e i locali c'era tanta gente, bello, cioè la gente si divertiva, un gruppo sconosciuto che viene dall'Italia, che canta tra l'inglese e l'italiano, nel disco di Regency che è uscito, certo, e la gente era lì che guardava, ascoltava e ballava. È vero. Qua è molto più difficile. Io ti dico un episodio che mi ha detto una band che è venuta qualche mese fa qua. Loro sono stati in Germania e loro hanno suonato nei locali in Italia, chiaramente. Purtroppo qualche volta capita nei locali, un panino, una birra e la gente sente il concerto, qualche volta se lo sente. Mentre lui è stato in Germania, ha fatto qualche data in Germania, fino alle ore 20:58 era un casino, una confusione. Alle 21 precise, quando loro hanno cominciato a suonare, un silenzio di tomba e tutti quanti hanno seguito i pezzi che erano scritti, cantati in italiano da una band italiana. È un altro modo di vivere le cose. È un altro modo di vivere. A me piace il casino quando il casino lo creiamo noi. Musicalmente parlando. C'è quelle... Però un rispetto per il musicista ci vuole. Sì, sì, ci vuole, assolutamente. Bisogna anche mettersi in testa un po' che chi suona in un locale, dalla cover band al gruppo originale, bisogna dargli atto che è un atto di coraggio anche. Certo. Mettersi davanti a tutti a suonare. Bisogna anche dar atto a questo. 23:45, abbiamo circa un quarto d'ora. Tempo per suonare ancora. Che cosa? Dillo tu, Ronnie, vai. Vai, Ronnie. Waking Up. Ah, bella Waking Up. Un pezzo molto... la traccia, sarebbe la traccia numero 9 del disco. Qua ho scritto un gioiellino pseudoacustico, ma una semplicità solo di facciata, ho scritto io. Era così proprio. Non è un pezzo semplice, né a cantarlo né a suonarlo, proprio perché abbiamo cercato di un po' di farlo più difficile, forse quello che era, che naturalmente. Era. Ok, adesso lo sentiamo. Wait. day to come. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'acusticità che si sposa con la potenza, un pezzo, come abbiamo detto, acustico, ma un acustico non facile. Adesso mi dici le difficoltà che avete avuto per costruire questo pezzo, questa traccia numero 9 del disco. Ronnie, visto che hanno segnato su di te, quindi parlerai te adesso. La manina. Vai tu. Ma in senso compositivo, dici? In senso compositivo, anche nel senso, in senso là. Prima in senso compositivo. Ma come hai detto te, come anche hai scritto, questo qua è un pezzo un po' ingannevole, Perché, cioè, così di primo acchito potrebbe sembrare un po' top, tra virgolette, sempliciotto. Invece non è così. Dal punto di vista invece compositivo, se la memoria non mi inganna, trovammo un po' di difficoltà soprattutto verso il finale. Allora mi ricordo che facemmo pausa, abbiamo bevuto un caffè, fumato una sigaretta. Sì, quindi siete un momento... E Kay ha tirato fuori praticamente il primo abbozzo di linea melodica, e poi noi, come l'abbiamo sentita, patatrac, abbiamo fatto subito immediatamente il finale, e poi da lì insomma siamo andati in discesa. Ecco. Il feeling è arrivato immediatamente. Sì. Sono quei pezzi un po'... non so mica trovarti l'aggettivo giusto. Forse quello che mi viene meglio è un po' ingannevoli, è volutamente inserito verso la fine del disco oppure sì, volutamente, perché sì, doveva essere così. Sì, beh, questo secondo me ci sta lì in fondo, perché poi l'ultima canzone Soul to Squeeze, che è, come dicevamo prima, un po' dark, però è potente. Sì, molto potente. Molto potente, perciò risveglia un po' il discorso e poi chiude tutto la ghost track, che è un po', è una cosa totalmente fuori dai nostri schemi, perché c'è dell'elettronica, c'è un'altra voce dentro, ci sono tante cose diverse, però diciamo che Soul to Squeeze chiude bene il disco e Waking Up gli dà il là. Esattamente, si apre in una certa maniera e si chiude in una certa maniera. Tutto il resto, all'insieme, c'è la vostra faccia musicale, le vostre creazioni. Eh sì. Di tempo, cioè il disco è stato fatto l'anno scorso, praticamente in quanto tempo all'incirca adesso? Mi sembra in 3 settimane, quindi velocissimi, sì, 3 settimane di registrazione, siete stati velocissimi, sì. Circa, c'era gente come Michael Jackson che ci metteva 7-8 mesi per fare un là, era un'altra dimensione, diciamo che avevano anche dei budget diversi, avevano dei budget diversi, assolutamente diversi, tanti budget buttati, no, beh, noi avevamo fatto più tempo, è che i pezzi sono usciti subito quasi. Ah, ecco, quello è importante. Quasi subito. Abbiamo quasi finito, adesso diciamo le informazioni di servizio. Dove si può trovare il disco, assolutamente? Beh, il disco si può trovare nei negozi che utilizzano Audioglobe, che è il nostro distributore, perciò si può cercare su audioglobe.it, siamo a catalogo in quasi tutti i negozi, la maggior parte dei negozi, ci potete trovare sul sito che è www.pnprock.com, perciò pnprock.com, e su iTunes si potete trovare su tutti i distributori digitali. Digitale, Amazon, ce ne sono iTunes, tanti. Ci sono tanti, esattamente. Sì. Ricordiamo i concerti che avete già citato, ma li ricordiamo. Allora, i più recenti, i prossimi sono il 25 a Verona, il K59, e a Busseto il 20 maggio, se non ricordo male. A Busseto, bello, la patria di Verdi, quindi andate a Busseto? Beh, siamo già andati a suonare lì l'estate scorsa, che è stato il nostro primo concerto con questa formazione, e siamo piaciuti molto, noi ci siamo divertiti molto e perciò siamo contenti di tornarci. Certamente, la scaletta di concerti è sempre mutata oppure una scaletta pseudofissa? No, cambia abbastanza. Cambia. Cioè, come Bob Dylan, insomma, anche lui. Che lui cambia, perché i musicisti non lo sanno, quello è bello. Quando sale sul palco... Voi lo sapete. Prima la sappiamo, però diciamo la decidiamo a concerto a concerto. Questo è importante, rispetto anche al pubblico, l'umore del pubblico che c'è là, che vi ascolta. Beh, soprattutto su certe canzoni decidiamo di spostarle prima o dopo, o addirittura di non suonarle, se succede. Ah. Come mai anche di non suonare? Beh, tipo Yesterday and Tomorrow è una canzone talmente particolare che magari può succedere che non si suona. Cioè, si salta, si se può ne fa saltare, qualche altro. Nel senso. Ma l'avete avevi detto che ne avevate 30 a disposizione. Abbiamo 30 canzoni, sì, e da quelle 30 canzoni siamo scesi, abbiamo stretto fino alle 10 dell'album. 10 dell'album, una bella cerniera che avevate. Però non sono state buttate, sono là pronte. Sì, alcune sono abbozzate, alcune sono più pronte, però ovviamente noi crescendo come musicisti, come gruppo, abbiamo ci stiamo amalgamando sempre di più, e perciò le 30 canzoni alcune le prenderemo, altre le lasceremo lì, insomma. Certamente. 23:57 abbiamo proprio concluso questo bello appuntamento di due ore piene di musica di Paul Non-Pencis, che è un gruppo di Verona, però un gruppo internazionale. La musica internazionale non ha appartenenza alla musica, è internazionale, si sente dappertutto. Terminiamo con il singolo, stavolta in versione live, assolutamente live. Io ringrazio la band e ringrazio Michele Tojon, che è venuto, grazie, che ha fatto la regia. Domani non facciamo festa, ma Rockway continua, ci sarà Blu Radio Sera con Agostino e un gruppo di Roma, gli Orizo. Con cosa finiamo con il singolo allora? Lo ripetiamo il titolo? Myself. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie a voi. Buonanotte. Buonanotte. Countdown. No one can stop me now.